denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, caro Mauro, Babbo Natale ha portato la sanzione dell'autorità garante delle comunicazioni per gli operatori della telefonia che avevano modificato la periodicità delle bollette da mensile a 28 giorni. Eh sì, perché come ammonisce, cara Debora, la stessa autorità sul suo sito e come riferiamo oggi su tutti i giornali, compreso naturalmente il Sole 24 Ore, il Consiglio ha deliberato di irrogare agli operatori la sanzione massima prevista dalla legge. Motivo: mancata osservanza della delibera della stessa autorità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte. Quindi, insomma, la bolletta 28 giorni. In soldoni quanto dovranno sborsare questi signori? In soldoni dovranno pagare, ma soprattutto dovranno adeguarsi, perché come sai, Deborah, il decreto legge 148, il decreto fiscale oramai definitivamente convertito, che mi ero già confusa con il provvedimento sulla all'articolo concorrenza. All'articolo 19 quaterdecies, perché non vorrei che tu ti fossi scordato dell'articolo 19 quaterdecies. Come potrei mai? Prevede che la fatturazione debba essere a mese, non a 28 giorni. E comunque la sanzione è 1.600.000 per ogni operatore. La sanzione massima. Insomma, diciamo che è un po' peggio che perdere l'ombrello, si potrebbe dire. Insomma, bella tredicesima. Allora, detto questo, non è il tema di cui parleremo oggi, ma sicuramente avremo modo di tornarci su questo argomento che ha scaldato gli animi tantissimo delle associazioni dei consumatori e dei consumatori stessi, che si sono un po' indispettiti rispetto a questa novità con la quale avevano dovuto prendere confidenza la scorsa primavera. Oggi invece è giovedì e quindi parliamo di gnocchi. No. Anche. Ah, sì. Non ci dispiacerebbe, ma è ancora un po' presto per cominciare con le mangiate natalizie. Allora cominciamo, Mauro, a mettere un attimo sull'acqua. Siamo ancora un po' a stecchetto oggi, perché avremo modo di recuperare nei prossimi giorni. Oggi è giovedì e quindi è tempo di parlare di mercati finanziari, perché c'è la giornata dedicata alla nostra rubrica settimanale sugli investimenti e risparmio delle famiglie. Allora, si avvia a chiusura un 2017 che è stato molto intenso per i mercati finanziari. Ne abbiamo raccontate tante di storie, ci siamo preoccupati della politica, delle banche centrali. Intanto le piazze finanziarie piano piano hanno puntato sulla ripresa economica e si apprestano ad archiviare un anno, direi, d'oro. Wall Street continua ad essere sui massimi. È arrivata anche la riforma fiscale di Trump, anche se ancora il presidente non ha messo il suo sigillo, la sua freschissima firma. Freschissima, ne riferiamo oggi, esatto, proprio con i dettagli anche sul Sole 24 Ore, con però, questo taglio per le imprese specialmente molto importante, molto pesante. Vanno bene anche le borse europee, Francoforte è una di quelle che viaggiano sui massimi. Oggi abbiamo le elezioni in Catalogna. Insomma, per chi ha puntato sul mercato azionario, quest'anno potrebbe dire di aver fatto delle buone scelte, magari per altri le scelte sono state differenti e non soddisfacenti, ma quello che ci interessa sapere in questo frangente è cosa si può ragionevolmente prevedere per l'anno prossimo. Secondo te le elezioni italiane di marzo saranno l'incognita europea numero uno dell'anno prossimo? Guarda, non lo so, però potremmo chiederlo a qualcuno dei nostri ospiti che forse è più informato di me. Benissimo. Anzi, senza il forse. Allora andiamo con la nostra rubrica del giovedì. Sì. E vabbè. Investire informati. Glielo concediamo l'intoppino. Beh, colpa di Alessandro Marco Tulli. Per quale motivo devi essere venuto a disturbare la trasmissione? Non hai da gestire Oscar Giannino, tu? No, niente, è venuto qua. Allora, salutiamo Andrea Roccabella che è in regia questa mattina. Esatto. È lì davanti a tutti i bottoncini, il cui loro senso mi è oscuro, però deve essere qualcosa di importante, perché la nostra voce vi arriva solo e soltanto se Andrea Roccabella sta lì, pigia, esatto, i pulsantini, infatti, i bottoncini giusti. Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Proviamo a chiudere quest'anno di Investire Informati un po' in leggerezza, perché così rassereniamo un po' gli ascoltatori. Ma non è l'unico ospite di questa mattina, Lorenzo Alfieri, perché è collegato telefonicamente con noi. Siamo ben contenti di averlo, perché centellina le sue partecipazioni televisive e radiofoniche. Raffaele Ierusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Buongiorno. Buon anno, naturalmente. Grazie, tanti auguri anche a voi. Oh, naturalmente, prima di chiedere agli ospiti di aiutarmi nel rispondere alla domanda che mi hai posto e alla quale io non ho assolutamente idea per rispondere, voglio ricordare che potete scriverci, telefonarci, mandarci segnale di fumo, anche dei regalini per Natale. No, i regalini per Natale ovviamente no, sono uno scherzo, ma 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E oggi, essendo giovedì, anche per rispondere al nostro domandone, sì, esatto, di investire informati. La ricetta dei vostri gnocchi, lo stesso, la riceviamo volentieri quella. Sicuramente, oppure se volete mandarci un SMS o interagire con noi via WhatsApp 349-238-6666, e poi un'ampia disponibilità di social network, perché Due di Denari ha una pagina su Facebook ed è Due di Denari Radio 24. Da lì tra l'altro ci potete anche vedere in video, anzi salutiamo Deborah, se vuoi salutare i nostri ascoltatori, ciao, social, ciao. Abbiamo naturalmente un account su Twitter, chiocciola Due di Denari, attenzione che è un numero, due, il numero 2, la cifra 2 di Denari, e da lì potete anche trovare il link per la diretta video. E poi per proprio perché non ci vogliamo far mancare nulla, due di denari @radio24.it è la nostra casella di posta elettronica. Non finisce più la lista oggi, oh, ma sono più degli altri giorni, che è successo? Ma no, volevo così insomma far vedere con un'esibizione anche muscolare che siamo preparati a interagire con tutti quanti. Raffaele Gerusalmi non torna più se andiamo avanti in questa maniera. Dottor Gerusalmi, risponda lei per me, mi aiuti, chiedo l'aiuto da casa, come allora si dice nei programmi televisivi. Allora, facciamo un po' questo bilancio 2017 per la borsa italiana, per chi non avesse ad oggi un quadro della situazione, perché magari non si appassiona tanto alle vicende finanziarie. Raccontiamo un po' qual è lo stato di salute della borsa italiana, qualche numero, dottor Gerusalmi, la capitalizzazione ad oggi, quante società quotate. Non lo facciamo mai questo bilancio, non raccontiamo mai le vicende di Piazza Affari, a meno che non riguardino esclusivamente le quotazioni quotidiane, le vicende delle banche, ossessioniamo un po' gli ascoltatori solo ed esclusivamente quasi con quei temi là. Ci racconti qualcosa in più? Questo 2017 si archivia positivamente per la borsa italiana? Sì, direi sicuramente un 2017 che ricorderemo con grande piacere, è uno degli anni record per quanto riguarda il numero di quotazioni, ne abbiamo avute e ne avremo, perché domani ne abbiamo ancora una, 39 alla fine di quest'anno, e quindi posizionerà quest'anno tra i primi due o tre anni record come numero di ammissioni per borsa italiana. Ci aiuta anche, grazie alla quotazione e al ritorno sul mercato di Pirelli, quest'anno ci aiuta a arrivare secondi in Europa per non solo numero di quotazioni ma anche per dimensione dei capitali raccolti, quindi per noi è un anno sicuramente molto positivo. Siamo ad oggi, e questo però purtroppo è un dato che dovrà essere poi confermato a fine anno, manca ancora qualche giorno per arrivare alla fine dell'anno, ma siamo ad oggi la miglior borsa europea come performance, l'indice è salito del 15% e siamo in questo momento la miglior borsa europea, quindi direi un anno molto positivo. Ma su questo hanno influito, dottor Gerusalmi, anche i PIR, che hanno avuto un successo forse anche al di là delle aspettative, anzi toglierei il forse, il governo nemmeno si aspettava che avrebbero avuto questa diffusione. Ma i PIR sicuramente hanno aiutato, anche se tenga presente che i PIR sono partiti nella seconda metà dell'anno e che poi in realtà molti dei soldi che sono stati raccolti non sono stati ancora investiti, quindi direi che la buona notizia è che il meglio dell'effetto dei PIR secondo me lo vedremo a partire dall'anno prossimo, quindi i PIR sono sicuramente un incentivo che è stato di grande aiuto per il mercato, serviva, era necessario, in Italia è sempre mancata la componente istituzionale domestica e quindi investimenti di medio-lungo periodo verso le aziende italiane, quindi questo è sicuramente un passo nella giusta direzione. Sicuramente il merito dei PIR, dottor Gerusalmi, è stato quello di rendere un po' più vivaci determinati segmenti, che sono quelli dove confluiscono le società che hanno una capitalizzazione più piccola e che magari se non ci fosse stata questa opportunità forse non si sarebbero neanche mai quotate. Ecco, che tipo di effetto c'è stato su questi segmenti un po' meno noti, diciamo un po' meno popolari alla collettività? Sicuramente, in primo luogo. Lime Italia, che è il segmento che abbiamo disegnato proprio per le aziende a medio piccola, soprattutto piccola capitalizzazione, ha avuto, grazie ai PIR, sicuramente un miglioramento notevole sia nella liquidità dei titoli, quindi negli scambi, che sono aumentati di 6-7 volte rispetto all'inizio dell'anno, quindi sicuramente questo è stato un beneficio che è arrivato grazie ai PIR, ma soprattutto diciamo che oggi chi arriva sul mercato può contare su una, diciamo, quantità di investimenti predefinita, che sicuramente aiuta anche a soddisfare poi queste richieste di denaro che ormai sono sempre più frequenti. Dottor Gerusalmi, per tornare alla domanda che mi ha posto Deborah e alla quale io non so assolutamente rispondere, non solo le elezioni italiane, ma insomma il 2018 dovrebbe presentarsi come l'anno della riforma fiscale statunitense, l'abbiamo appena evocata e sembrerebbe una buona notizia. Peraltro la borsa americana va molto forte, è andata molto forte quest'anno, o almeno fino a stamattina, non vorrei mai essere smentito in diretta. E in Italia invece abbiamo questo tema delle elezioni. Qual è a questo punto, secondo lei, il legame che può esserci tra le vicende politiche, queste vicende politiche, e gli andamenti dei mercati? Ma guardi, l'esperienza degli ultimi anni dimostra che la componente politica pesa sempre meno rispetto a quello che è l'andamento dell'economia e quindi l'andamento dei mercati. Quindi in assenza di notizie particolarmente destabilizzanti sul fronte politico, i mercati ignorano, mi sentirei quasi di dire, l'andamento politico in generale. Peraltro ormai siamo in una situazione dove siamo abituati ad avere anche lunghi periodi di assenza totale di governo, e non parlo dell'Italia, ma sto parlando della Germania, sto parlando di paesi anche molto più diciamo stabili storicamente magari rispetto al nostro, e quindi direi che questa è la testimonianza che ormai i mercati rispondono molto più a leggi economiche che non a leggi politiche. Dottor Gerusalmi, sempre ritornando invece al 2017 e alla vivacità che Borsa Italiana ha manifestato nella sua attività, ma che ha guadagnato un po' meno la ribalta della cronaca, qualche giorno fa avete lanciato un nuovo indice che si chiama Brand Index, che punta proprio sulle società che hanno una immagine particolarmente forte nel panorama economico. Poi c'è stato un accordo in precedenza fra la vostra piattaforma Elite e la Cina. Ci racconta di queste novità e perché dovrebbero interessare anche il pubblico di tutti i risparmiatori? Ma innanzitutto, allora, partirei dalla piattaforma Elite, che è stato uno dei grandissimi successi di Borsa Italiana. L'abbiamo lanciata 5 anni fa, oggi conta più di 700 aziende, di cui 416 sono italiane, le altre provengono da 27 paesi, non solo europei, perché abbiamo anche aziende israeliane e marocchine, quindi direi che siamo andati anche oltre i confini dell'Europa. È una piattaforma digitale che aiuta e ha lo scopo di aiutare le imprese a raccogliere capitali, non necessariamente attraverso la quotazione, ma in tutte le forme che sono disponibili per poter soddisfare appunto questo obiettivo. Questa piattaforma ha avuto un successo straordinario, tanto che, come ricordava lei, adesso abbiamo addirittura varcato anche i confini asiatici, perché con questo accordo che abbiamo siglato in Cina la scorsa settimana con la borsa di Shenzhen avremo un accordo che ci consentirà di distribuire questa piattaforma anche sul mercato cinese. Per quanto riguarda invece l'indice che ricordava sui brand, ecco, credo che questo sia veramente, sarà un indice sui brand che avrà un grande successo. Consentirà di valorizzare al meglio le aziende italiane. Noi oggi abbiamo 22 aziende che fanno parte di questo indice, ma l'indice è aperto, quindi potranno entrarne molte altre. Noi abbiamo mappato nello studio di quelle che sono le aziende quotate sui nostri mercati oltre 65 aziende che hanno dei brand particolarmente riconoscibili e che potrebbero essere incluse in questo indice. E quindi credo che quest'indice rappresenterà il meglio del Made in Italy, il meglio dell'eccellenza italiana, e dimostra che l'Italia non è fatto, soprattutto l'indice, non è fatto solo da banche, società energetiche, utility come era fino a 10-15 anni fa, ma che oggi, man mano che passa il tempo e che gli imprenditori si avvicinano al nostro mercato, il mercato riflette molto di più oggi quello che è il vero tessuto economico italiano, che è tutt'altro di quello finanziario, energetico e delle utility. Dottor Gerusalmi, le chiedo come ultima sollecitazione un contributo su un tema che a noi qui a Due di Denari è molto caro, che è l'educazione o alfabetizzazione finanziaria. È noto universalmente che noi italiani non siamo preparatissimi, io per primo naturalmente, chi vi parla, ma il 2018 dovrebbe essere anche l'anno in cui parte uno sforzo importante proprio dal punto di vista istituzionale per alfabetizzare un po' di più tutti i risparmiatori. Borsa Italiana come si sente coinvolta, che fa, per come opera, come cerca di operare per colmare queste asimmetrie informative? Ma guardi, noi con me sfondo una porta aperta, perché Borsa Italiana ha iniziato a occuparsi del tema nel 2002, quindi 15 anni fa. Abbiamo pubblicato innanzitutto una serie di guide per aiutare quelli che volevano avvicinarsi al mercato a utilizzare i prodotti disponibili nel modo più consapevole possibile, con delle guide che spiegassero molto molto bene quali erano potenziali opportunità, ma anche evidentemente rischi nell'utilizzare determinati prodotti. Abbiamo creato la prima Trading Online Expo in Europa, ed è questo, risale al 2001 addirittura, in cui offriamo la possibilità a pubblico indistinto di venire a Piazza Affari, a Palazzo Mezzanotte, e a sentire seminari, convegni in cui vengono presentate appunto e spiegate strategie di gestione, strategie di trading, proprio per avvicinare in modo consapevole agli investimenti azionari e non solo azionari ma anche obbligazionari di tutti i presenti. Abbiamo ogni anno ormai 3-4 mila persone che si alternano in due giornate qua a Palazzo Mezzanotte, è un evento ormai ricorrente, quindi noi su questo tema dell'educazione finanziaria credo siamo in prima linea da sempre e continueremo a farlo, anzi vorremmo incrementare la nostra partecipazione, e quindi queste iniziative che vengono lanciate ci vedono sempre molto contenti di partecipare. Voi avete visto un miglioramento in qualche modo di noi discenti su questo tema? Cioè dal 2002 appunto, come ricordava, le sembra che siano un po' migliorate le consapevolezze degli investitori? Ma secondo noi sì, perché abbiamo visto una crescita numerica di questi soggetti che operano, diciamo, in maniera individuale, quindi con il cosiddetto fai da te, anche grazie appunto a poi alla diffusione di strumenti come gli indici passivi o altri prodotti che rendono più facile, no, gli ETF, i certificate, prodotti che rendono più facile, diciamo, un processo di allocazione del proprio risparmio su diverse cosiddette asset class, su diverse categorie di strumenti, e credo che questo sia un qualcosa che vediamo proprio nei numeri, quindi la risposta è sicuramente sì, e credo che lo sforzo debba continuare, e addirittura con grande interesse guardiamo alle iniziative più recenti che portano anche l'educazione finanziaria nelle scuole, perché crediamo e abbiamo sempre creduto che questo tipo di sforzo debba essere fatto veramente a livello anche di scuola e di università. Bene, grazie a Raffaele Ierusalmi per essere stato con noi, ci ha fatto molto piacere questa chiacchierata. Buona giornata, voi, buone grazie. Feste a grazie, tutto lo staff. Grazie, auguroni anche a voi. A presto. Arrivederci. E noi con chi... stamattina parlavamo di papere, Mauro, ecco, vedi che anch'io ho fatto la mia, l'ho portata a casa, quella prenatalizia. Porta a queste incertezze. E io, perché sai che io mi sto proprio proiettando già verso le vacanze, da domani ti lascio solo per qualche giorno, già mi raccomando. Già da domani avrò lo studio tutto per me. Ma fammelo trovare in ordine però, il 2 gennaio quando risalgo in sella. Ma facciamo una festicciuola con 70-80 amici, vedrai, sarà tutto in ordine. Lorenzo Alfieri lo invitiamo a questa festicciola? Ma sicuramente, anzi è invitato con anche tutti i suoi collaboratori, perché ci stringiamo tutti qua nello studio, metteremo musica ad alto volume, eccetera. Allora, ci sono già due ascoltatori pronti con le loro domande sulle tematiche di risparmio, ma magari facciamo fare anche a Lorenzo Alfieri un commento rispetto a tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. Secondo lei, a bruciapelo, subito così, tanto per gradire, le elezioni italiane ci disturberanno l'anno prossimo? Daranno un po' di movimento, fermento negativo al mercato? Ma se ci presentiamo alle elezioni italiane in un contesto macroeconomico di questo genere, può essere che gli effetti siano veramente molto marginali. Probabilmente il mercato italiano, soprattutto il mercato MIB, potrebbe avere una certa volatilità, potrebbe esserci una certa volatilità anche sui titoli di Stato, nello spread, ma sostanzialmente se il quadro è questo, e diciamo che le previsioni almeno per la prima parte dell'anno sono tutto sommato abbastanza positive, quindi l'effetto diciamo del rischio politico italiano in Europa è abbastanza limitato. E io vorrei chiedere, non voglio fare il guastafeste, ma qualche anno fa aveva avuto molto successo questa teoria del cosiddetto cigno nero. Eh sì. l'aveva elaborata un signore che si chiama Nassim Taleb, se ricordo bene, giusto? Bravo. Bene. Ecco, e il cigno nero è, che ti ho rilasciato è quella cosa che non puoi prevedere, ti spunta improvvisamente e niente, una variabile che non avevi alcun modo di prevedere. Perché il cigno nero non esiste, per cui se tu te lo vedessi navigare, nuotare in uno stagno, diresti ma che, e invece qualche volta si manifesta. Ogni tanto spunta. Esatto. Allora io vorrei chiedere ad Alfieri, ma voi... Per quanto il cigno nero sia appunto imprevedibile per sua natura, come ci ha spiegato Taleb, vedete qualche possibile stagno, qualche specchio d'acqua in cui potrebbe sorgere il cigno nero? Penso che so, le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti o le tensioni in Medio Oriente, vicende di questo tipo. Ma diciamo che in questo momento i mercati finanziari, e lo vedete tutti i giorni, sono molto ben posizionati, c'è un clima molto positivo. Significa fondamentalmente che i mercati finanziari non stanno scontando nessun elemento negativo. Quindi in uno scenario di questo genere potremmo dire che un cigno nero, giustamente come hai sottolineato, potrebbe essere aspetti geopolitici che non sono assolutamente in questo momento previsti. Un altro elemento potrebbe essere ad esempio un rallentamento più o meno forte della locomotiva cinese, che vi ricordo sta crescendo intorno al 6,5-7, e che ed è una crescita anche piuttosto programmata, e che è prevista crescita ancora intorno al 6 o superiore al 6%, ma potrebbe ovviamente improvvisamente deragliare, non è previsto nulla nei mercati. E in ultimo, per non tediarvi sui cigni neri, l'inflazione americana. Come sapete, il dibattito è abbastanza aperto, ma in questo momento gli scenari dei mercati in termini anche previsionali è per un livello di inflazione estremamente contenuta. Mm-hmm. Si parla poco sopra il 2%, e questo ovviamente è qualcosa che piace molto ai mercati. Se dovessimo domani svegliarci e avere un'inflazione in America molto più alta, ecco, ci troviamo probabilmente di fronte a degli scenari leggermente diversi. Ma ripeto, sono semplicemente delle ipotesi, perché come giustamente avete evidenziato, il cigno nero non è assolutamente prevedibile. Non è prevedibile. In realtà molti ascoltatori dicono informatevi bene, perché il cigno nero è molto raro, ma esiste. Addirittura un ascoltatore minaccia: volete una foto? No. Lo sappiamo, ci siamo magari espressi male. Detto questo, è un evento talmente raro che lo riteniamo improbabile che si realizzi. Detto ciò, ovviamente, come tutti gli scenari sempre più avversi possibili, come l'estremità, no? Adesso non vorremmo introdurre degli elementi di per cui bisogna ricorrere a gesti scaramantici. Esatto. E neanche parlare di zoologia, soprattutto perché, cara Debora, ora è il mio momento. È il tuo momento. Debora, sei pronta? Pronta. Le borse. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it. Benvenuto nel sistema CombiVox. Inserire codice. Inserito impianto totale. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema CombiVox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli CombiVox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni, e goditi la tua tranquillità sempre. CombiVox ti protegge ovunque tu sia. CombiVox, enjoy life safely. CombiVox.it. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono? Una pazzia. Prenderci cura della tua auto offrendoti i prodotti più adatti per affrontare l'inverno? Una pazzia. E ora che in questi giorni ad ogni rifornimento regaleremo una confezione di pasta del rinomato pastificio Dalla Costa, chissà cosa diranno. Buone feste dalle stazioni di servizio Costantin, dove fermarti ti conviene. Ecco il re. Porta anche tu a tavola un re, il culatello di Zibello Dop, il re dei salumi, unico e inconfondibile come la sua terra d'origine, la Bassa Parmense. I nobili e potenti di un tempo gli hanno tributato onori, famosi poeti hanno decantato il suo gusto delicato e irresistibile. Ricorda, il vero culatello Dop è solo di Zibello. Culatello di Zibello Dop. Buono come lui, non c'è nessuno. Programma di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020. Info su ER Agricoltura. Assicurati per le feste con RBM Assicurazione Salute. Protegge la salute della tua famiglia. Regala una polizza sanitaria RBM. Fino a Natale sconto del 25% sul totale del premio del primo anno per tutte le polizze online. Info e costi su tuttosalute.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su rbmsalute.it. Due di denari. Allora, vorrei invitare tutti gli ascoltatori che ormai si stanno sempre di più affezionando alle vicende, alle peripezie, alle avventure dei Chapter 11, che ieri sulla pagina Facebook di questo prestigioso gruppo musicale, chissà se Claudio Baglioni me lo chiama a Sanremo, hanno pubblicato appunto i nostri amici guidati dal frontman Mauro Meazza insieme a Marco del Marco Lo Conte e Stefano Elli. Questo video, no, perché ero distratta dal video che sto riguardando, in cui vengono resi noti a tutti i riconoscimenti assegnati dalla giuria appunto dei Chapter 11 per il premio Ponzi Corallo 2017. Sì, diciamo, parlavamo di cigni neri, allora abbiamo voluto indicare nel nostro piccolissimo. Uno dei tre, insomma, se lo meriterebbe. Nel nostro piccolissimo abbiamo voluto indicare alcuni premi per chi, diciamo, si è peggio comportato con i risparmi, con i soldi dei risparmiatori. E infatti. Appunto ci sono anche tre categorie diverse: il premio alla carriera, c'è cioè il premio tecnologia e anche il premio NAB, di cui siamo molto fieri, cioè non vi hanno ancora beccato. Questo è una categoria, attenzione, perché quello è il cigno nero o serpente corallo, scegliete voi l'animale più pericoloso. Intanto stanno anche arrivando delle foto dei cigni neri, perché i nostri ascoltatori ci tengono ovviamente a dare dimostrazione delle loro conoscenze. Ecco, sono anche belli, guarda quelli che ci ha mandato un ascoltatore che adesso non so come si chiami, ma insomma chiederemo a Marco Lombardo di posizionarlo poi sulla nostra pagina Facebook Due di Denari. Oggi il tema entra anche a pieno titolo nel nostro approfondimento di Investire Informati con Lorenzo Alfieri, capo delle attività italiane, country head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, perché abbiamo cercato di ipotizzare quelli che potrebbero essere i cigni neri, che potrebbero in qualche maniera compromettere anche l'andamento molto positivo che le borse stanno avendo. È chiaro che la questione macroeconomica è la più importante. Lo scenario di ripresa anche in Europa, Alfieri, ormai c'è, insomma, almeno da questo punto di vista possiamo sicuramente confortare i nostri ascoltatori, tanto che anche le politiche monetarie sono ormai pienamente convinte e ritireranno piano piano gli stimoli monetari, che questo trend possa essere confermato. Sì, assolutamente, anzi abbiamo visto come nella seconda parte dell'anno l'Europa si è confermata e consolidata come l'area geografica più interessante in termini di crescita. Ovviamente non abbiamo i tassi di crescita che abbiamo in Asia, ma vedere l'Europa che cresce abbondantemente sopra il 2, il 2,5%, alcuni paesi europei addirittura hanno toccato più del 3%, è qualcosa che non si vedeva da molto tempo. E correttamente bisogna ricordare che in Europa tutti i paesi stanno crescendo, quindi questo è un elemento molto importante e che ovviamente poi è stato confermato dalla crescita dei mercati azionari europei. Anche se europei. Manca ancora un po' all'appello l'inflazione, che sarà pure l'altro grande punto interrogativo dell'anno prossimo, visto che la BCE ha questo traguardo del 2% affinché possa rimodulare la politica monetaria, no, Alfieri? Sì, diciamo che però il rischio dell'inflazionistico, volendo cercarlo ad ogni costo, è maggiormente presente dall'altra parte del mare, cioè negli Stati Uniti, dove effettivamente c'è un'effervescenza forse maggiore. In Europa attualmente, e l'abbiamo visto dalle ultime dichiarazioni di Draghi recentissimamente, le spinte inflazionistiche sono ancora troppo blande. E quindi ecco che la BCE ha intrapreso un percorso sì di uscita da questa espansione monetaria molto forte, ma un'uscita molto molto molto ritardata, molto lenta, graduale, proprio perché le spinte inflazionistiche in Europa sono ancora di là da venire. E allora guardi, andiamo subito di là invece dall'oceano, perché Luciano, che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi, buone feste in anticipo. Grazie, grazie altrettanto a lei. Grazie dell'accoglienza della compagnia che mi fate, che ci fate. Dicevo, ci porta dall'altra parte appunto dell'Atlantico, perché lei era interessato a investire sul dollaro? Sì, io volevo sapere da voi esperti, io faccio tutto un altro mestiere, produco ciliegie, duroni, però ho una piccola cifra da investire. Quanto ci piace la sua attività, ma che bello, dove ce l'ha? Dove ce l'ha questa attività? Io ce l'ho nel cuore della ciliegia tipica di Vignola, a Modena. È la classica ciliegia. Bravissimo. Diciamo così. Insomma, stiamo parlando con un'eccellenza italiana. Bravo, via. Bravo. Diciamo che direi che veramente siamo un'eccellenza, anche se come tante eccellenze italiane non siamo molto ben rappresentati. Direi proprio quello comunque. Bellissima storia. Sono tante cose che in Italia sono così. Comunque un prodotto unico. Ci ha distratto con le ciliegie, mi scusi, e faccia domanda. Io volevo chiedere una piccola cifra, diciamo così, che per un po' di tempo vorrei tenere ferma o fare qualcosa di speculativo, se ci sta. Non essendo, come le dicevo, il mio mestiere, per me il dollaro è un momento che si potrebbe acquistare favorevolmente. Diciamo, secondo voi è un investimento da fare, ancora presto, tardi? Assolutamente. Perché non vedo un'altra idea da investire la mia cifra, diciamo così, senza un gran rischio. Certo. Più che altro la vedo anche come investimento. Grazie Luciano, grazie molte. Ci mandi una foto delle sue ciliegie. Alfieri, tutti i suoi colleghi sostengono che, a prescindere poi dalle valutazioni quotidiane che noi sempre raccontiamo quando facciamo l'aggiornamento dei mercati, in realtà una porzione di investimento sul mercato americano, e quindi un'espressione in dollari del proprio investimento, si debba sempre avere, sia che sia azioni, treasury, valuta, no? Quindi investimento in dollari inteso a 360 gradi. Assolutamente. Allora, facciamo la premessa: fare le previsioni sui cambi è la cosa più difficile al mondo, probabilmente più difficile di fare anche le previsioni astrologiche. Però volendo essere concreti e pratici, diciamo che in questo momento le previsioni sul dollaro rispetto all'euro chiaramente non sono particolarmente favorevoli. Significa che il grosso percorso, il lungo percorso di rivalutazione del dollaro rispetto all'euro si è completato, e stando così le dinamiche macroeconomiche, tutto sommato il dollaro non dovrebbe rafforzarsi, anzi c'è uno spazio per un leggero rafforzamento dell'euro in termini previsionali tra il prossimo 6-12 mesi rispetto al dollaro stesso. Però facciamo una premessa e ritorno al discorso che avevo fatto inizialmente, cioè in questo momento i mercati finanziari sono estremamente positivi, non è stato scontato nulla di negativo, quindi giustamente, come dicevi tu, il dollaro può essere un'interessante soluzione per, tra virgolette, immunizzare in parte il proprio portafoglio da eventi imprevedibili. Cito a caso appunto elementi geopolitici. Generalmente quando ci sono degli eventi geopolitici imprevisti, il dollaro ne trae immediato beneficio. Quindi il dollaro, diciamo, che è il vero bene rifugio, a prescindere dalla considerazione che sia dell'oro o del franco svizzero, di quelli che tradizionalmente vengono ritenuti tali, o comunque una moneta di riferimento che può ovviamente in situazioni di alta volatilità, forti correzioni magari dei mercati azionari, può in parte salvare il portafoglio. Ma oggi come oggi il dollaro, però, il suo percorso di forte rivalutazione rispetto all'euro sembra si sia completato. Allora, credo che Deborah, a questo punto abbiamo più o meno un minuto, e forse potremmo lanciare il nostro domandone. Anche. Vuoi farlo subito? Volevi prima lanciare ma il nostro ascoltatore, volentieri. Quello che ritieni, mi sento allora molto natalizia. Oh, ma come sei buona oggi, Donato? No. Comandano loro. A un certo punto, quando vedono questa indecisione, prendono loro Nel dubbio è entrato a piedi uniti Andrea Roccabella per dire che era il momento del domandone. Allora, noi, chi sono io per non dare retta ad Andrea Roccabella? Anche perché, nessuno, come vi dicevo, lui ha i pirulini da girare, esatto, e se lui gira male i pirulini, qua va tutto a ramengo. Niente. Allora, il domandone di oggi, È facile, ragazzi. È proprio, ve l'abbiamo detto e ridetto. Servito su un piatto d'argento, è proprio visto Natale, che è il prezzo giusto. Ci siamo rovinati. Vogliamo sapere che cos'è il cigno nero nella finanza e a chi viene attribuita questa teoria. Esatto, potete anche rispondere ad una sola delle due domande, proprio in questo verbe di bontà oggi. Oggi abbiamo sbraccato, diciamolo, esatto, Deborah. Praticamente la Befana è Babbo Natale. Il numero è il solito, 800 24 00 24. Rispondeteci intervenendo in diretta. E adesso, cara Deborah, è il momento del traffico. Di denari. Sì, io ieri sera mi sono rivista la seconda puntata e per cui so mi gratifica. Sei una grande appassionata, perché tu hai la fortuna che non eri manco nata quando la mandavano in onda. Ma cosa e quindi stai dicendo? Avevo 18 anni. Per ma noi, sì, va bene, vero, lasciamo stare. Invece chi ha poco tutta più che 18 anni è Chiara Compagnoni, che è qui. Esatto, eppure tocca fare la tua badante, guarda un sì, po'. Sì, infatti l'abbiamo ribattezzato così, sei contenta? Ha avuto questa fortuna che mi farà da badante, no, da assistente naturalmente, per la prossima settimana, quando, cara Deborah, tu sarai in vacanza insieme in a Marco Lombardo. Io e Marco Lombardo andiamo a sciare e voi vi lasciamo lavorare poi però tornare il 2 gennaio, perché Due di Denari sarà sempre in diretta in questi giorni. E allora lasciami un po' di neve dal 2 di gennaio in avanti. Benissimo. Perché a quel punto io penso che potremo darci allora il cambio. Senti, il 2 di gennaio ti lascerò la neve, ma il 3 di gennaio lo sai che tra di noi ci sarà anche la signora Mifid numero 2. Ne abbiamo parlato così tanto che mi sembra ormai di averla già qui. Esatto. E invece non c'è ancora Lorenzo Alfieri. Insomma, abbiamo questa novità importante che impatterà sulle società che gestiscono grandi portafogli, ma anche sul piccolo risparmiatore. Insomma, quali sono i 2 o 3 aspetti da conoscere rispetto all'aggiornamento della disciplina sui servizi di investimento che entra a pieno regime nell'ordinamento italiano? Ma sì, è una nuova regolamentazione molto molto ampia che ha interessato sia chi costruisce e gestisce i prodotti finanziari, sia chi li distribuisce, ma sia soprattutto chi, il cliente finale, li acquista. Quindi direi che è una interessante, importante opportunità che, volendo essere sintetici al massimo, porterà maggiore trasparenza sui prodotti finanziari, maggiore possibilità di avere ancora più dettagliate informazioni sui prodotti e soprattutto, direi, la cosa più importante, maggiore consapevolezza da parte dell'investitore finale su quale tipo di prodotto finanziario si sta acquistando e i rischi che si va incontro acquistando un certo prodotto finanziario. Quindi direi è un miglioramento complessivo della regolamentazione che da cui ovviamente poi il cliente finale trarrà notevoli benefici. Anche se, caro Mauro, la carta da firmare non mancherà, e già questa obiezione è stata sollevata da molti risparmiatori che anche ci hanno scritto, perché la banca sta comunicando effettivamente l'arrivo di questa novità, ma lamentano, a me sembra un modo per sgravarsi dalla responsabilità, ma come al solito, ma qui appunto anch'io chiamo in causa il nostro ospite. E bisognerà poi vedere come noi risparmiatori interagiamo. Credo che un tratto importante della MiFID sarà che dovranno essere resi più trasparenti i costi, che sono sempre un tema su cui magari siamo molto propensi a chiedere come investitori, ma poi facciamo un po' di confusione facilmente, perché per preoccupati di qualche zero virgola poi perdiamo di vista l'obiettivo vero del risparmio, è così? Assolutamente corretto, come al solito ci può essere qualsiasi tipo di regolamentazione, ma poi se il cliente al momento in cui firma o compra o acquista un prodotto non va a leggere ovviamente ciò che sta acquistando, ciò che sta firmando, inevitabilmente può incorrere in sgradevoli sorprese. Diciamo che la MiFID 2 introduce anche una serie di prospetti molto più chiari, molto più trasparenti e molto più semplici da leggere, proprio per facilitare la comprensione di ciò che si sta andando ad acquistare, dove si sta andando ad investire da parte del cliente. Quindi anche in questo caso direi che c'è sicuramente un grosso miglioramento. Allora, Donato dalla provincia di Brescia, povero, sta lì, cioè, si è ascoltato, è vero, tutta, è vero, la trasmissione, è stato travolto al telefono, dal domandone, praticamente. Donato, benvenuti, intanto grazie. Buongiorno, senta, una domanda molto semplice. Alla luce del fatto che anche i famosi conti di deposito attualmente rendono solo lo 0,1% e l'imposta di bollo è lo 0,2%, quindi si mangia il rendimento. Qual è la forma di investimento per la liquidità ad oggi che possa in qualche modo compensare l'imposta di bollo? Temo che dovremmo proprio cercarla con la lente di ingrandimento, Donato. Non esiste in questo momento, in questa condizione di tassi a zero e anche negativi su molte scadenze di titoli di Stato, Alfieri... Ma è uno, infatti, dei problemi principali che vediamo anche sui mercati finanziari e che hanno tutti gli investitori, e cioè quello di non poter in questo momento, per così dire, utilizzare la liquidità come bacino di riserva, come strumento che possa essere alternativo agli investimenti tradizionali. In passato ci ricordiamo che quando non si sapeva dove investire si andava in liquidità. Questo è uno dei grossi problemi, soprattutto ovviamente adesso in Europa, dove i tassi rimangono sotto terra. Cosa diversa ovviamente negli Stati Uniti, dove sappiamo che ormai ci accingiamo verso 1, e quindi là il rendimento della liquidità è maggiore. Purtroppo, ripeto, non ci sono al momento grandi soluzioni. Mi verrebbe solo da dire che se uno cerca ovviamente degli investimenti il meno rischioso possibile, probabilmente bisogna andare ad acquistare ad esempio fondi obbligazionari flessibili, sì, dove realmente il gestore può flessibilmente muoversi sui vari mercati per trovare, certo, le soluzioni migliori, ma siamo, però, ovviamente, però non è liquidità, non è liquidità, certo, diciamo, non corrisponde questo tipo di investimento all'obiettivo. Mi sembra che il fenomeno della che liquidità della, sia abbastanza tramontato a questo punto, cioè in questa fase, non da oggi, voglio dire, già da un paio d'anni probabilmente, l'investimento, lasciare la liquidità confidando sui rendimenti, insomma, sia passato di moda, non sia più il momento. In questo momento, come giustamente diceva l'ascoltatore, non c'è assolutamente nessuna convenienza a tenere i soldi in liquidità, anzi non ci dimentichiamo che essendoci un'inflazione, i rendimenti della liquidità sono oltretutto negativi, erosi semplicemente dal passaggio della giornata, ogni giorno, certo, a causa dell'effetto inflazionistico. Vero, abbiamo detto prima, l'inflazione europea resta freddina, non si scalda quanto la banca centrale però vorrebbe. Però siamo intorno all'1,5, infatti, se il rendimento della liquidità è prossimo allo zero, noi normalmente perdiamo, certo, l'1,5. Senta Alfieri, ma a prescindere dalle considerazioni che abbiamo fatto prima, le banche centrali, la rimodulazione della politica monetaria, il sentiero di crescita ormai intrapreso dalle principali economie, tutto questo porta, per esempio, un colosso degli investimenti come il vostro a puntare, se lo sapete già, nel 2018 su quali settori di investimento? Ma dunque, dovendo scegliere alcune opportunità, ci piace molto ancora in Europa la tecnologia. La tecnologia ha corso molto nel 2017, ma soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto su alcuni nomi molto noti che tutti ormai conoscono, uno fra tutti Apple. Noi pensiamo invece che la tecnologia sia ancora in una fase di forte crescita e in Europa ci sono delle aziende di nicchia che beneficeranno o continuano a beneficiare del fatto che i grossi nomi internazionali della tecnologia utilizzano magari le aziende europee per utilizzarli nella fornitura di determinati, certo, tipi di strumenti. E quindi tipicamente, ecco, STM, il fornitore di chip per grandi colossi mondiali, quindi, e molto più brandizzati, diciamo. In Europa abbiamo delle opportunità nei mercati emergenti. Crediamo che nel 2018 ci sia ancora delle opportunità. I mercati emergenti, ahimè, vuol dire tutto, non vuol dire niente, perché sono decine e decine di paesi, ma ci sono alcuni paesi interessanti, il Brasile, la Russia, l'Indonesia, giusto per dare degli spunti, per dire che anche lì probabilmente ci sono delle opportunità per il 2018. Anche se, in generale, concludo, lo scenario macroeconomico che si presenta all'inizio del 2018 è particolarmente favorevole in generale. Allora, abbiamo un minuto, Debora. Vai. Anna da Roma che vuole rispondere al nostro domandone: il cigno nero che cos'è e chi l'ha sintetizzato, teorizzato? Anna, buongiorno. Buongiorno a voi, buon lavoro. sintetizzato Nassim Nicholas Taleb, sì. Il cigno nero è come l'improbabile che governa la nostra vita. Io aggiungerei negativo, l'improbabile negativo. Grazie, grazie ad Anna. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Buon lavoro e buone feste. C'era anche Gaetano da Roma. Sono la nostra allieva, Deborah. Davvero? Cara, sì. Ottimo, allora guardi, adesso la facciamo subito membro del nostro fans club e le mandiamo dei super doni. Esattamente, essendo poi anche Natale, c'è anche Gaetano da Roma, se vuole partecipare anche lui. Gaetano, buongiorno. Ma sì, ma 20 buongiorno, la risposta l'ha già data la signora, quindi non posso che ripeterla. E d'altra parte, per galanteria, Gaetano, che dovevamo fare? Certamente. Però lei, siccome si è scomodato a chiamare, naturalmente premieremo anche lei in qualche maniera, grazie ai nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza in questi mesi di accogliere in maniera così affettuosa questo nuovo duo che si è presentato nel palinsesto di Radio 24. A Natale ci siamo arrivati, la bottiglia di spumante la stappiamo, ma ora adesso dobbiamo arrivare a giugno e adesso vedrai che doni ho in serbo per te, cara Deborah. Grazie, grazie a Lorenzo Alfieri, buon anno, naturalmente buone feste. Grazie a voi. Io sto già facendo gli auguri perché da domani non ci sono, non ma ci torno sarai. Il 2 gennaio. Va bene, allora. Auguri a tutti, caro. Auguri anche chiudiamo, a te, Deborah. Chiudiamo, Andrea. Grazie anche a tutti i ragazzi del nostro staff. Io da solo domani qui a Due di Denari. Buona giornata, a presto.